L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, bentornati a una nuova puntata dell'Altro Pianeta, quello che rispetta l'ambiente e gestisce i propri rifiuti correttamente. Perché parliamo di questo? Perché si è svolto questa settimana a Firenze il Congresso Mondiale sui Rifiuti Solidi ISVA 2012, promosso da ATIA ISVA Italia, l'associazione che rappresenta imprese, istituti di ricerca, associazioni di categoria e professionisti del settore della gestione dei rifiuti e bonifiche ed è membro dell'International Solid Waste Association. Alessandro Canovai, presidente ATIA ISVA e vicepresidente del Consorzio Italiano Compostatori, è con noi, benvenuto. Buonasera, buonasera. Allora, tra i tanti dati che emergono dalle ricerche che sono state presentate durante questo congresso di Firenze, c'è anche quello che riguarda le discariche, che è molto interessante. Ce n'è anche un altro, e lei è perfetto per questo, che riguarda il compostaggio, e di questo parliamo. Questi sono i due principali temi di questa puntata. Dicevamo, le discariche costituiscono ancora la modalità principale di smaltimento dei rifiuti nazionali, quasi il 50%, questo è il dato ed è particolarmente impressionante, mi pare, Presidente. Sì, è impressionante perché la pressione normativa che da anni cerca di far sì che questo avvenga non è ancora sufficiente per evitare il continuare su una strada di smaltimento che anche da un punto di vista tecnologico, diciamo, non risulta più essere completamente all'avanguardia, perché nuove tecnologie si stanno facendo avanti e quindi stare ancorati ancora a questo vecchio sistema, ancorché migliorato nel corso degli anni, non fa certo onore al sistema complessivo del nostro paese. Quindi gli svantaggi sono chiaramente in termini ambientali, quando parliamo di discariche, parliamo di svantaggi anche da un punto di vista tecnologico, ricordava lei, e anche occupazionale. Sì, ora il mio giudizio è abbastanza tecnico, nel senso che l'impatto ambientale rispetto a quanto ci si può immaginare nella storia delle discariche nel corso degli anni è comunque diminuito, perché oggi esistono per le discariche tecnologie per mitigare il loro impatto, per estrarre in maniera sufficiente i gas che si producono e trasformarli in energia elettrica. Ma è indubbio che l'impatto più grande è quello territoriale, per la grande area occupata da questi impianti, per quanto siano complessi anch'essi e dotati di ogni sistema, diciamo, di monitoraggio per far sì che, ripeto, le emissioni, si dice, di gas e di acqua siano minimizzate, ma di fatto l'occhio, per intenderci, non ne gode certamente, e poi si occupano grandi spazi, grandi superfici. L'indirizzo della normativa europea è di ridurre al minimo, e comunque c'è una quantità che residuale che non è possibile non avviare a un impianto definitivo come la discarica o la termovalorizzazione, ma l'obbligo sarebbe quello di fare una raccolta differenziata che raggiunga almeno un obiettivo di 2/3 dei rifiuti, per poi riciclarne, recuperarne da questi almeno la metà, e soltanto sulla parte residuale, dopo un processo di innocuizzazione, di biostabilizzazione cosiddetto, si possano mandare questi rifiuti o a discarica o a termovalorizzazione o a recupero energetico. In molte, sì, volevo leggere questi alcuni dati, poi farle anche una domanda diciamo specifica sul perché non lo facciamo. I dati che voi riportate, in molte regioni d'Italia come Sicilia, Molise e Basilicata, i rifiuti vengono smaltiti per oltre l'80% in discariche senza subire alcun trattamento preliminare. In Sicilia il dato si attesta addirittura al 93%, solo il 28% di questi viene sottoposto a forme di trattamento preliminare. Questi sono, diciamo, i casi limite, quelli più gravi senza appunto neanche trattamento. Ma perché non facciamo questo passaggio? Come mai non c'è un miglioramento evidente? Ma diciamo, un miglioramento c'è stato, forse ancora i numeri non dimostrano il raggiungimento dell'obiettivo. Un miglioramento c'è stato, diciamo, a scendere dal nord verso il sud, attraverso il centro, anche nel centro Italia, segnalo, c'è ancora qualche caso. Perché in Italia la costruzione di impianti di trattamento rifiuti è una delle cose più difficili da fare, perché, diciamo, è molto complesso il procedimento autorizzativo, è molto complesso ottenere il consenso sociale, perché comunque c'è sovente, come si può dire, un allarmismo diffuso a prescindere sugli impianti di trattamento rifiuti, di qualunque natura essi siano, per cui i cosiddetti decision maker, cioè coloro che devono decidere, spesso si adagiano sulle comode soluzioni offerte dalle discariche, peraltro neppure costruite tanto di recente, perché molte delle discariche esistenti sono ben datate, però sono state, quando furono costruite erano impianti molto grandi, per cui durano, sono disponibili ancora oggi. Per cui uscire da un binario complesso, ma certo, come la discarica, per affrontare percorsi, diciamo, di costruzione di impianti, spesso è molto faticoso e non tutte le amministrazioni riescono a fare questo. In Italia negli ultimi 20 anni sono stati moltissimi casi, ma non solo il sud, col caso più eclatante di Napoli, ma anni fa ci fu l'emergenza a Milano che richiese l'intervento di qualificate imprese per la costruzione di impianti, perché anche la civilissima Milano ebbe a confrontarsi con una discarica in esaurimento e quindi fu costretta a quell'epoca a costruire impianti di trattamento rifiuti di emergenza, cosiddetto. Sovente si preferisce aspettare l'emergenza di modo che diventi inevitabile l'accettazione di un impianto di trattamento. Ecco, questa è una cultura sbagliata, però dimostra la debolezza, diciamo, della pianificazione, della forza, diciamo, di chi è preposto a questa pianificazione di riuscire a far inserire questi impianti sul proprio territorio. Dimostra anche che tutti i nodi prima o poi vengono al pettine, insomma, si può dilazionare, però poi dopo alla fin fine bisogna risolvere e affrontare queste situazioni. Anche i cittadini devono risolversi ad affrontare la situazione, perché la discarica, che magari colpisce pochi, alla fin fine viene accettata come un danno arrecato solo a quel gruppo che abita lì. Invece bisogna fronteggiare la situazione come comunità, insomma, e capire che cosa fare. Ma infatti l'altro aspetto che lei toccava prima e non le avevo risposto è anche il problema occupazionale, nel senso che se oggi la direttiva è raccogliere i rifiuti in maniera differenziata, che è una cosa, diciamo, nella cultura media dell'italiano antipatica, un po' faticosa, no? Infatti viene da un modello tedesco, i tedeschi sono più bravi di noi a rispettare le regole, lo vediamo anche in questi eventi economici recenti, però consente poi di avere a valle della raccolta differenziata delle fabbriche, delle filiere che trattano i rifiuti, quindi sono fabbriche dove delle persone lavorano, per generare dei prodotti di recupero che possano essere reimmessi nel mercato dell'industria. Quindi c'è un avvicinamento tra il mondo dei rifiuti e il mondo della produzione dei beni di consumo, che ha bisogno di materie prime, in questo caso di materie prime seconde. Questo concetto, visto in maniera positiva e come ce lo stiamo dicendo adesso, favorirebbe lo sviluppo dell'impiantistica. Purtroppo poi prevalgono altri valori, il deprezzamento, quando uno ha un impianto dei rifiuti vicino casa pensa al valore deprezzato della propria casa e quindi reagisce. Ecco, bisognerebbe essere capaci, magari lavorando anche di comunicazione, di sensibilità sociale, di far apprezzare il valore sociale di una comunità che è dotata di impianti. È un fatto di civiltà, dal mio modesto punto di vista. Certo, c'è anche, vabbè, ma adesso non andiamo a allargare troppo il discorso, comunque anche una, come si dice, comprensibile sfiducia dei cittadini rispetto alla parola data, tante volte da imprese, no? Ci sono casi anche di cronaca recenti che lo dimostrano, che assicurano appunto che nulla è male di quello che si fa, poi si scopre che è il contrario. Quindi è un rapporto di fiducia che va costruito probabilmente in Italia, reciproco, che va costruito. Che lei tratta è enorme, il tema della fiducia. No, infatti non ci addentriamo, però insomma, ecco, va costruito. No, sì, va costruito, e vorrei citare però un aspetto anche culturale, economico della vicenda. I servizi pubblici in Italia per anni si è pensato dovessero essere gratuiti, no? È di questi giorni tutta la polemica del fatto che ce li dobbiamo pagare al costo giusto del servizio. L'acqua ha fatto questo percorso prima dei rifiuti, nell'utilizzo da parte dei cittadini, però il costo industriale di un trattamento rifiuti in delle comunità dove si pensa che buttare il rifiuto e smaltirlo non debba costare niente è difficile, per cui chi poi deve gestire il problema rifiuti si trova, come si può dire, ostico il dover andare a dire ai cittadini che A, devono pagare più soldi, B, si troveranno nel proprio territorio un impianto intorno al quale poi girano camion dei rifiuti e quindi il problema che dicevo prima. Spesso è difficile, e questo io non so certamente come si possa risolvere, ma il dialogo tra la popolazione e coloro che governano le città, le municipalità, perché di fatto questo problema è equamente distribuito su tutto il territorio, perché ogni ambito territoriale ottimale dovrebbe risolversi i propri problemi inerenti ai rifiuti. Questa dialettica, dicevo, senta non sempre, ci sono casi positivi anche sulla scorta di esperienze straniere in cui si riesce facilmente a portare in porto l'iniziativa infrastrutturale, altri dove subentrano, come si vede sulle cronache, fenomeni di dissenso, talvolta anche parossistici, insomma. Sì, sì. Allora, giusto per concludere questa prima parte della trasmissione che trascorriamo con lei, perché poi continuiamo dopo la viabilità, volevo dare qualche altro dato che riguarda la situazione mondiale. Il rapporto mostra come circa il 70% dei rifiuti prodotti nel mondo finiscano ancora in discarica e tra l'altro il trend immagino sia più accentuato nei paesi in forte sviluppo. Esattamente. Quindi è un tema da affrontare da un punto di vista mondiale, non solo italiano. Mondiale, ma infatti il messaggio che è uscito dal congresso è che va affrontato sin dall'inizio dello sviluppo industriale di questi paesi, che iniziano un percorso, diciamo, nella loro vita sociale, nel loro sviluppo industriale, ed è necessario per evitare gli errori di cui parlavamo prima, fatti anche nei paesi oggi ben più civilizzati, l'Europa, l'Italia stessa, fare una corretta pianificazione della gestione del rifiuto. Tra l'altro, le sembrerà strano, ma il tema del riciclaggio è molto più apprezzato in questi paesi di via di sviluppo, dove la forza lavoro ha un costo molto basso e c'è un immediato ritorno economico dalla buona pratica del riciclaggio, che nei paesi industrializzati, dove il costo della manodopera talvolta porta queste materie prime e seconde recuperate fuori mercato. Quindi sembra per assurdo più facile uscire dalla discarica in questi paesi in via di sviluppo. Certo che servono i soldi. E da dove arrivano questi soldi? Le organizzazioni internazionali che supportano l'inizio dello sviluppo sociale nei paesi in via di sviluppo dedicano ad oggi molto poco del loro budget, che è un budget enorme, si parla di oltre 160 miliardi di dollari, ma appena lo 0,3-0,4% viene dedicato in questi paesi, per un totale di circa 200 milioni di dollari l'anno, per impostare l'infrastruttura trattamento rifiuti. E invece avrebbe senso spendere di più, perché risolve in parte anche il problema, come dicevo prima, delle opportunità di lavoro e di dare dignità a questa filiera che spesso nei paesi in via di sviluppo assume dimensioni apocalittiche. Ci sono delle discariche su cui vivono bambini, famiglie intere in condizioni veramente inaccettabili in un mondo avviato verso un continuo progresso. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini, stiamo parlando del congresso mondiale sui rifiuti solidi ISWA 2012, si è svolto a Firenze nel corso della settimana. Nostro ospite è Alessandro Canovai, che è presidente ATIA ISWA Italia, vicepresidente anche del consorzio italiano compostatori. Proprio qui ci siamo lasciati. Allora Canovai, il tema della raccolta dell'umido è forse quello che ci regala qualche soddisfazione in più. Se abbiamo parlato di discariche che non vanno granché bene, almeno qui abbiamo qualche dato molto più positivo. Indubbiamente, ed è un piacere sottolineare come l'Italia negli ultimi 20 anni abbia registrato una continua crescita della percentuale di rifiuti umidi raccolti in maniera differenziata, tanto che oggi possiamo ben dire che è la colonna portante della raccolta differenziata in Italia. Più di un terzo dei rifiuti raccolti in via differenziata in Italia oggi sono costituiti dalla frazione umida, ovvero la frazione organica, i cosiddetti scarti di cucina e la frazione verde, gli sfalci e le potature dei nostri giardini. Così tanto è diventato, noi che abbiamo sempre insomma vantato le nostre eccellenze per la carta, il vetro eccetera eccetera, siamo intanto cresciuti nella raccolta umida fino a questo punto. Sì, sì, abbiamo recentemente superato con la frazione organica raccolte differenziate ancora più consolidate nel nostro paese, come diceva giustamente lei, la carta e il vetro, che sono più facilmente rimettibili nel mercato delle materie prime e seconde, ma di gran lunga ci siamo avviati, abbiamo conquistato questo primato, dietro il quale c'è un intenso lavoro di imprese, di impianti, di uomini che lavorano, per cui questo è un settore maturo e molto importante anche in termini numerici per la qualità della raccolta differenziata nel nostro paese. Volendo fare una classifica, diciamo, chi è in testa al gruppo più capace, più esperto nella raccolta dell'umido, chi altro invece magari ha guadagnato punti nell'ultimo periodo? Ma guardi, è difficile, diciamo, le regioni che sono partite per prima, quelle del nord, quindi il Veneto, la Lombardia, sono più avanzate. Sono già avanzate. È una piacevolissima sorpresa che la regione che ha registrato il maggior incremento negli ultimi anni è la Campania, croce e delizia, diciamo, del nostro sistema di smaltimento di rifiuti italiano. Quindi accanto al ben noto episodio dell'emergenza di Napoli ci sono molte realtà, Salerno tra le più importanti, ma anche altri piccoli comuni che si sono messi di buona lena a fare la raccolta differenziata dell'umido e hanno raggiunto percentuali altissime, a dimostrazione che si può fare e si deve fare. Si può fare, ma perché tante volte tanti sindaci dicono ma è difficile, è molto costoso? No. Costoso è un fatto industriale, dipende dal territorio. Si intuisce facilmente, io ora sono in Umbria, che è un territorio con una bassa densità di popolazione, quindi bisogna fare molti chilometri per raccogliere in tutti i punti il rifiuto, ha un costo diverso rispetto a una metropoli con i grattacieli, dove in un punto si raccolgono mille persone. Costa di più perché le quantità raccolte per unità di mezzo sono più piccole. Al cittadino qualche maggior difficoltà rispetto a scendere sotto casa e trovarsi il vecchio cassonetto dell'indifferenziato può crearlo, perché bisogna farla in certi giorni piuttosto che in altri. Però, ripeto, fa parte tutto di quanto positiva e costruttiva è la dialettica sindaco-cittadini. Molti, devo dire per esperienza in questi miei giri per l'Italia, ho notato che poi molti sindaci si innamorano di questa raccolta differenziata, che da subito, essendo la frazione più pesante del rifiuto, se noi pensiamo alla composizione del rifiuto, l'umido, essendo costituito di acqua, è quello più pesante, quindi certo, quando uno fa la raccolta differenziata dell'umido la propria percentuale schizza subito a valori molto alti e il sindaco è contento perché vede un effettivo beneficio, ecco. Certo, il sindaco, qualunque esso sia all'ascolto in questo momento, può fare magari riferimento a voi, al Consorzio Italiano Compostatori, per qualche dritta su come cominciare? Con grande piacere, noi come associazione abbiamo sottoscritto molti protocolli d'intesa con regioni, province e anche comuni, quindi siamo disponibili e mi auguro che prosegua nel tempo, ecco, questa crescita del nostro settore. Prima di lasciarla al suo viaggio, ma quando un'amministrazione poi organizza una raccolta di questo tipo, dell'umido, ha sufficienti impianti sul territorio italiano a cui conferire quest'umido? Come si deve comportare lì? Manca qualcosa? Sì, manca, diciamo, un'affermazione generale. Ad oggi, per raggiungere l'obiettivo, mancano circa 100 impianti in Italia, ce ne sono invece circa 250. È indubbio che man mano nella programmazione regionale o interprovinciale è previsto nei vari territori italiani da questa pianificazione la realizzazione di impianti laddove la raccolta differenziata partendo produce questa frazione organica. Quindi in un primo momento c'è sicuramente il network di impianti vicino al sindaco che decidesse di partire, ma poi nel tempo la sua regione ha sicuramente programmato in un qualche punto l'impianto per il trattamento di questi rifiuti. Le due cose sono state programmate insieme, almeno avrebbero dovuto. Ecco. Almeno avrebbero dovuto, ecco, se non l'hanno fatto, sindaci, insistete. Esatto. Grazie mille ad Alessandro Canovai, ricordo presidente Attia ISVA, vicepresidente del Consorzio Italiano Compostatori. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. E adesso è il momento di Articolo 9, la nostra rubrica dedicata, come l'articolo 9 della Costituzione italiana, alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione. Marco Carminati. Buongiorno da Marco Carminati. Ci sono zone d'Italia dove la mano dell'uomo, la mano delle attività industriali, in particolare delle attività legate anche all'estrazione dei minerali, ha lasciato una traccia indelebile nel paesaggio. Però questi luoghi possono diventare dei luoghi di straordinaria riconversione e proprio di straordinaria cultura del paesaggio e del paesaggio urbano. E alludo a un caso particolare che è quello legato alla città di Carbonia in Sardegna, città che grazie a un progetto che si intitola Carbonia Landscape Machine ha vinto lo scorso anno un premio, il premio paesaggio dato dal Consiglio d'Europa. Dietro questo bellissimo progetto ci sta il professor Antonello Sanna, che è il preside della Facoltà di Architettura dell'Università di Cagliari, che è in collegamento con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Ecco, voi avete fatto qualcosa di straordinario per certi aspetti. Io vedo qui davanti a me le immagini di queste riconversioni, di questo modo di ridisegnare il paesaggio urbano di Carbonia. E quindi vorrei che lei ci raccontasse questa avventura. Ecco, come mai vi hanno assegnato questo premio? Cosa avete fatto per meritarvelo? Il premio è assegnato alla città di Carbonia. Certo. Quindi è una cosa che valorizza una straordinaria esperienza umana, sociale, amministrativa, nella quale noi come università siamo stati coerentemente coinvolti e eticamente, professionalmente dentro sino al collo. Diciamo che è stata forse la nostra esperienza di punta come Dipartimento di Architettura. Tengo proprio a dire che non è un progetto in cui la dimensione professionale o scientifica possa essere isolata minimamente dagli aspetti realizzativi. Del resto stiamo parlando di una città, no? Certo. Carbonia è una città a tutti gli effetti, certo. È un capoluogo di provincia, è una città di 30.000 abitanti, è un luogo complesso, nato negli anni 30 sulla base del grande disegno dell'autarchia, naturalmente pieno di contraddizioni, con questa dimensione mineraria che ha anche degli aspetti terribili naturalmente, certo. Però è stato fin dall'inizio un disegno di grande qualità legato a un momento di livello e a temi di livello e di importanza internazionale, con protagonisti di livello internazionale, che ha avuto una crisi pazzesca negli anni 60 quando le miniere sono sostanzialmente chiuse, tranne quella di cui si sta discutendo in questi giorni, che nel 2000 ha, saltando naturalmente infiniti passaggi, ma insomma a partire dal 2000 ha elaborato questo progetto che è un nuovo modello di sviluppo in realtà, è proprio quello a cui lei accennava all'inizio, cioè l'idea che dai paesaggi industriali storici, senza perdere il nesso con la dimensione produttiva, col fare, insomma, si può però cavare paesaggi invece e occasioni di lavoro e di sviluppo culturali, scientifici, no? Si è recuperata la città, si è recuperata la miniera. Ecco, professore, a proposito di miniera, ecco, mi faccia qualche esempio proprio di recupero fatto all'interno di questo grande progetto. Dunque, noi da un lato abbiamo ritenuto che fossero un'unità inscindibile la città che era nata a bocca di miniera e la miniera. La grande miniera di Serbarius, cioè la più grande miniera italiana, stiamo dicendo, una miniera di carbone che in quegli anni si confrontava con le grandi miniere europee. La città è stata coinvolta in pieno nelle attività di recupero dagli spazi pubblici ai monumenti, abbiamo in qualche modo tirato fuori lo spirito della città razionalista degli anni 30. La miniera, che è a 800 metri dalla piazza principale della città peraltro, sì, è stata il fulcro di questo recupero era un luogo abbandonato, devastato, in 10 anni si è trasformato, sarebbe bello vederla, io spero che agli ascoltatori venga voglia di andare a vedere. Ah, ma facciamo apposta questa trasmissione per invogliare anche gli ascoltatori. Lo capisco bene, allora faccio un piccolo spot. Sì, lo faccio. Uno straordinario sistema museale, che è il Museo del Carbone, ma il Museo della Vita, anche antropologico, ma il Museo Paleontologico, c'è di tutto. E poi ci sono anche, però, siccome non si vive di solo museo, attività produttive, ci sono ancora, c'è un centro di ricerca che lavora sull'uso pulito del carbone per estrarre ancora energia, ci sono centri di ricerca che stanno lavorando sul fotovoltaico, quindi è proprio l'associazione tra la cultura e lo sviluppo sostenibile, proprio per tirar fuori il meglio delle risorse di quel luogo storicamente industriale, per riproporlo nel terzo millennio in un contesto di competizione internazionale in cui naturalmente non si può giocare la partita con la Cina sul costo del lavoro, perché è persa, e invece bisogna giocarla sulla qualità dell'offerta culturale, sulla qualità della ricerca, dell'innovazione, dello sviluppo. Professore, lei appunto con questo progetto, che coinvolge naturalmente tutte le realtà della città di Carbonia, ha messo in campo una possibilità veramente di uscita verso il futuro di queste realtà che erano nate legate a delle produzioni che poi si sono estinte, e quindi noi possiamo inserire naturalmente Carbonia nelle nostre città da visitare quando verremo nella bella Sardegna. Questo è un augurio che faccio a me e naturalmente a tutti gli ascoltatori. E la ringrazio molto, professore, per questa sua partecipazione. Grazie a voi. Grazie anche a Laura Fagini in redazione, a Carmelo Laucella in regia, e un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori. Ed è tutto anche per questa puntata dell'Altro Pianeta. L'appuntamento è rinnovato per la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.